crowdfunding riguardante il nostro radio abbonamento, 30 euro per 1000 ascoltatori, è una iniziativa che si rinnova per il terzo anno consecutivo e che e per i quali quelli che vogliono aderire possono andare sul sito della radio e studiarsi le varie modalità di adesione. Intorno alle 22:30, ricordo 25 o'clock. Cominciamo con il salutare Marco qui a Roma, Nicola Locci di Stigmate e Maya dalla Sardegna, Nadir Persegona di Os, Lucia Cagliazza in arte Lupsi dalle parti di Udine. Laura Spirit Crusher, Tablo Rasa, Cortina Tampezzo, Eugen Vintras, ossia Gin che ci sta ascoltando da Venezia, lo salutiamo. Francesco Cornello in quel di Bergamo, Ant Christ di Omicidio a Firenze. Nelle ultime settimane abbiamo accumulato due, diciamo, talenti alla chitarra, ossia Lupsi e Joe Gilardini. Entrambi hanno fatto recentemente un album e questa sera finiamo di analizzare le loro opere, cominciando proprio con Lupsi attraverso il suo Ride on the Night, uscito più recentemente rispetto a al disco di Joe Gilardini che ascolteremo dopo. Ride in the Night, dunque, potrete apprezzare la chitarra trattata e reverberata della nostra Lucia Cagliazza in queste tre tracce: Time Machine, The Talking Mountain e Dancing with the White Three Bones. con Dancing with the White Trees Bones terminava Riding the Night, questo ultimo lavoro di Lupsi. Quest'ultima traccia vedeva anche una presenza vocale che forse è proprio della stessa Lupsi, della quale devo anche segnalare ovviamente i lavori precedenti rintracciabili sul suo profilo Bandcamp. Artista che ho conosciuto tramite Raffaele Pezzella, tramite le sue numerose compilation, e qui, guarda caso, cura anche il suono di questo Riding the Night. Saluto Like Awake, che giustamente va anche a sottolineare, come ho accennato prima, il modo, diciamo, diverso e originale di usare la chitarra in questo ambito musicale. Non succede spesso. Intanto Lucia mi conferma che la voce bella che sentivamo era la sua. Ricordiamo, Lucia ha anche un lontano passato metal. Saluto anche Enrico Ponzoni e Massimo Oders Mascheroni, Marco Milanesio di Disordine, Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Chiaramente avremo sotto osservazione la carriera futura di questa talentuosa artista friulana. Ricordo ancora una volta che domani, per chi non lo sapesse, ci sarà ovviamente il podcast sia sul sito della radio e sia in giro per il web. Andiamo avanti, abbiamo accennato di Joel Gilardini e appunto ce l'andiamo ad ascoltare. Lui ci ha regalato questo The Age of Space, un lavoro che esce per la Zero K, etichetta anche questa di Raffaele Pezzella, un album uscito sul fine del 2020, una bellissima copertina che vede l'immagine dell'Apollo Soyuz. The Age of Space ha evidentemente un immaginario ispirato alla fantascienza, al mondo dello spazio, come lo è l'etichetta stessa in tutti i suoi tre lavori che sono stati pubblicati. Ci ascoltiamo New Horizon. Thank you. chiamava New Horizons, i nuovi orizzonti, ed effettivamente era una sorta di viaggio siderale, atmosfere fredde in rarefatte, ma che ci rimandano, ritengo, alla tradizione del krautrock degli anni 70 che ben conosciamo. Ritengo uno dei momenti più alti di questo The Age of Space. Ricordiamo ultimo lavoro per Joel Gilardini, artista ticinese, anche se poi ha vissuto a lungo a Zurigo. E ci correggiamo poi per quanto riguarda Lucia, che non è friulana, lei è di Bolzano, tiene a dirlo, anche se vive ad Udine. Intanto saluto Noise Cluster con Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante. Wunnus Eilin, la tradizione industrial piemontese. Un saluto anche a Gianluca Becuzzi, vecchia conoscenza di questi spazi, che è anche al lavoro, diciamo, per comporre delle nuove cose che noi attendiamo presto. Saluto Emiliana Voltarelle, proprio a lei andiamo insieme a Marco Milanesio nel loro progetto in comune dal nome Pearls, che ricordo è una tonalità dell'indaco, una tonalità più scura dell'indaco. Una nuova avventura che è nata in occasione di questo Exile in H, un esordio dunque. Intanto saluto Alessandra Dotto al confine con l'Abruzzo. Tornando a Pearls, noterete delle somiglianze con Psycho Kinder, con la differenza che la voce recitante è quella di Emiliana Voltarel, ma come approccio musicale non è poi lontano da quella meravigliosa avventura sonica. E questa sera ci ascoltiamo Sin e Corde Risonanti. stavolta di corsa, confondendoci. Sì, abbiamo trovato altro da fare, non era speciale. Fino a quando è durato? E da qui nulla, per cambiare ancora idea. Ma dissolte in nuvole di fumo, le flebi di speranza. Sentivamo ogni secondo addosso e nulla sarebbe potuto finire mai. Si tornava di corsa dove si era già stati, i capelli bagnati dalla pioggia nella sera, aspettare la notte per fare musica, avere addosso quell'odore di cantina, sentire le dita bruciare, doloranti, la gola riarsa. Abbiamo anche pensato a una maledizione, il continuo sognare cose impossibili. Ora, né meglio né peggio, qualcosa riporta in quei luoghi. Il cielo è lo stesso, il paesaggio cambia di nuovo, guardando sempre davanti. Un ronzio. Un ronzio che sembra dire di andare. Un rumore che si sente di più coi pensieri. Essere casuale di immagini. Come dicevi, ma non voglio restare. Come chiedevi, e legno, e plastica, e acqua, e olio. Parlare con te, con nessuno. Fuori dalla finestra, grigio a strati. Non riesco a scaldare le mani e resto con le braccia incrociate. Bloccato qui e non voglio restare, anche se in fondo sembra sicuro. E legno, e plastica, e acqua. E olio. Legno e plastica e acqua. E olio. Passi in circolo, intorno a un tavolo, ripetendo frasi che danno certezza. E ogni secondo sembra nuovo, ma sa di ieri e basta. Non voglio decidere nulla e non voglio restare. Non è logico. E legno, e plastica, e l'imbarazzo. Legno. Plastica e l'imbarazzo. Salutiamo con molto piacere questa collaborazione tra Emiliana Voltarel di Braconide e Marco Milanesio, soprattutto con Disordine, eccetera, eccetera. È nato Pearls, una fattiva, interessantissima collaborazione, appunto. Le fascinose sculture sonore edificate da entrambi, i testi sono di Marco Milanesio, le macchine suonate da, sia da Emiliana sia dallo stesso Milanesio. Un album che esce con un'etichetta che personalmente non conoscevo, ma che evidentemente promette, se questi sono gli intenti, la Bamboo Shows, etichetta parigina. Salutiamo entrambi e ci ascolteremo un altro passaggio la prossima settimana. Exile in H si può rintracciare su Bandcamp. Saluto Maria D'Agostini. Eh sì, sono belle le narrazioni effettivamente declamate da Emiliana Voltarel, e confermo che ho avuto dei riferimenti, dei rimandi ad Alessandro Camilletti e i suoi Psycho Kinder. Insomma, la scena italiana è molto molto florida di talenti. Saluto intanto Mariano Virdia, che se non erro ci ascolta da Berlino. E io vado avanti, e proprio in Germania andiamo con l'ultimo lavoro di MDS 51. Un duo che si applica martellando oggetti vari e sottoponendoli a un trattamento elettronico, ed è uscito un lavoro molto interessante, l'ultimo, dal nome Incubus, proprio un mesetto fa. Album autoprodotto, e ci ascoltiamo Time e Superiorité Animale, la superiorità animale. folgorante ritorno per quanto riguarda MDS 51, duo tedesco. Il clanglore elettroindustriale si percuote ma si pulsa, elettronica pulsante di Enrico Staube e Mike Lutz. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo, forse proprio insieme agli stessi Wunus Aylin, in quel dello Schlangstrom, non ricordo. Lui può confermare, loro possono confermare, oppure l'ho visti a Lipsia, al Waveguide Treffen, comunque qualche annetto fa. Erano assenti da 6 anni e sono tornati con ben 2 lavori, questo Incubus e poi anche DNA, che cercheremo di reperire in qualche modo, entrambi autoprodotti. I 2 ottimi episodi erano Time e la Superiorité Animale. Eh sì, mi confermano, Wurnus Aylin probabilmente, anzi sicuramente allo Schlangstrom Berlino, in quel festival che si svolgeva in un museo di vecchie locomotive a vapore, una bellissima location dove hanno suonato anche gli stessi Wurnus Aylin, non so se lo stesso anno o meno. E vabbè, comunque andiamo avanti e andiamo a fare una capatina dalle parti di Diamanda Galasse, che ultimamente abbiamo riscoperto e riapprezzato, devo dire. Ci stiamo rivolgendo alla prima produzione di Diamanda Galasse. Questo è un album omonimo, una cassetta omonima, uscì su cassetta inizialmente, che portava il suo stesso nome, ed era del 1982. Ci ascoltiamo Eyes Without Blood, Wild Woman with Stick Knives, una lunga traccia che anche questa volta purtroppo saremo costretti a dividere in 2 parti, già che dura ben 17 minuti. Diamanda Galasse. Savante et le plus beau des anges, tu trahis par nos sortes et privé de louanges. Oh Satan, prends pitié de ma longue misère. Oh prince de l'exil, à qui l'on a fait tort, et qui vaincu toujours à te redresse plus forte. Oh Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais tout, roi de chasse, ta reine, guérisseur familière des angoisses humaines. Oh Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, même au Louvre, au Paris à maudit, enseigné pour l'amour à l'au-bout du paradis. Oh Satan, prends pitié de ma longue misère. Oh Satan, prends pitié de ma longue misère. Oh Satan, prends pitié de ma longue misère. Oh Satan, prends pitié de ma longue misère. Et tu n'as le plus savant que le poupon des anges. Et tu travailles pour la forte et tripée de louanges. Satan, prends pitié de ma longue misère. Au point de l'écrire, la pile en appétante. Et qui d'un coup tu sors, tu seras plus forte. On s'attend pour pitié de ma longue misère.